Un monastero, dei delitti, una biblioteca proibita, ma soprattutto il potere delle parole e della conoscenza. Addentriamoci nell'atmosfera del Nome della Rosa di Umberto Eco con Bruno Vavalà. Vi parlerò del romanzo Il Nome della Rosa, scritto da Umberto Eco. Ovviamente non andrò a parlare della trama, o perlomeno ne parlerò in modo da lasciarvi la curiosità, ma voglio raccontarvi soprattutto la storia di come casualmente l'autore si sia trovato a scrivere questo romanzo e della sua struttura, anche perché tramite essa si può capire l'originalità di quest'opera. Umberto Eco nasce ad Alessandria nel 1932, filosofo, medievalista, semiologo, ma la sua vita non ci interessa. Quello che ci interessa veramente è la sua ubicazione il 16 agosto del 1968, e cioè Praga. Qui gli venne tra le mani un libro di un certo abate Vallet, che aveva lo scopo di tradurre e di ammodernare un manoscritto del XIV secolo, trovato nel monastero di Melk, scritto da un benedettino di nome Adso. L'autore si trova a Praga per incontrare una persona a lui cara, ma 6 giorni dopo il suo arrivo le truppe sovietiche invasero la città. Umberto Eco riuscì a scappare e raggiungere la frontiera austriaca e successivamente fu condotto a Vienna e si ricongiunse con la persona da lui attesa e insieme risalirono il Danubio. Nel corso del viaggio si mise a leggere il libro e quasi a perditempo, di getto, abbozzò una traduzione. Quando arrivò nei pressi di Melk, il luogo dove fu ritrovato il manoscritto originale, non c'era traccia del manoscritto di Adso. Nonostante tutto, il viaggio continuò, ma una notte, a causa del litigio tra l'autore e il suo accompagnatore, gli venne sottratto il libro di Vallet. E così gli restò solo un pugno di appunti, con i quali, molto tempo dopo, decise di andare in fondo alla storia. Con le poche notizie tratte da quegli appunti, si recò a Parigi, nella biblioteca Saint-Gervais, cercando nei Vetera Analecta, ma il tutto si rivelò una falsa pista. Successivamente consultò intellettuali, studiosi, medievalisti, ma non c'era niente da fare. Gli unici Vetera Analecta si trovavano a Parigi e li aveva già consultati, anzi alcuni degli intellettuali che aveva già consultato lo convinsero che nessun abate Vallet avesse pubblicato un libro e che quindi quello precedentemente in suo possesso fosse un falso. L'autore lasciò perdere, ma poi nel 1970, curiosando in un antiquariato, gli venne tra le mani un libretto che riportava citazioni e rimandi al libro di Vallet. L'esistenza di quelle citazioni erano la prova schiacciante che un abate Vallet pubblicò un libro e di conseguenza anche l'esistenza di Adso da Melk. Continuò le sue ricerche e riuscì a capire l'ubicazione dell'abbazia dove si svolsero i fatti, cioè nel nord Italia, vicino il confine con la Francia, e successivamente anche l'epoca, e cioè fine novembre del 1927. Per quanto riguarda la traduzione in sé, Umberto Eco si dovette attenere alla traduzione in francese di Vallet, ma tenne in considerazione anche le note in latine di Adso, scartate da Vallet, che trovò trascritte nel romanzo. Così, anche se pieno di dubbi, egli venne trasportato da un gesto di innamoramento o anche forse da un semplice esercizio di liberarsi da alcune sue ossessioni. Arriviamo quindi al 1980, anno in cui venne pubblicato Il Nome della Rosa. Il manoscritto di Adso è diviso in 7 giornate, ciascuna di esse suddivisa in periodi corrispondenti alle ore liturgiche. I sottotitoli che però troviamo in ogni parte della giornata sono stati aggiunti da Vallet. Umberto Eco decide di mantenere questo ordine poiché aiuta ad orientare meglio il lettore. E le giornate erano divise in mattutino tra le 2:30 e le 3 di notte, laudi tra le 5 e le 6 di mattina, prima verso le 7:30 più o meno, terza tra le 9, sesta mezzogiorno, nona tra le 2 e le 3 pomeridiane, vespro verso le 4:30 o comunque verso il tramonto e completa verso le 6, massimo entro le 7, perché quello era l'orario in cui i monaci andavano a coricarsi. La vicenda è raccontata da Adso da Melk, ormai invecchiato, e gli cerca di ricordare l'avventura vissuta da giovane nel monastero del nord Italia e in particolare gli insegnamenti del suo maestro, Guglielmo da Blacksville. Il tutto si apre con i due protagonisti che si recano al monastero e qui, tramite la descrizione del luogo dove vi è situato il monastero e del monastero stesso, si può notare l'astuzia di Guglielmo e l'inesperienza di Adso. I due, poco prima di arrivare alla loro meta, durante una ripida salita, si imbattono in un gruppo di stallieri, capeggiati dal cellaro. Questi ultimi erano alla ricerca di un cavallo. Guglielmo, vagliando i vari indizi che poteva ricavarsi dalla natura e grazie alle sue conoscenze sul monastero, riuscì a dedurre quale cavallo stessero cercando, e cioè il cavallo più veloce della stalla, di nome Brunello, e la sua posizione. I monaci rimasero stupefatti dall'attenta analisi di Guglielmo, e lo stesso Alzo chiese al maestro come fece, e quest'ultimo gli rispose: «Mio buon Alzo, è tutto il viaggio che ti insegno a riconoscere le tracce con cui il mondo ci parla come un grande libro». Così, in un modo, lo andò a rimproverare. I due vengono accompagnati alla porta del monastero da uno dei monaci. Vengono accolti e sistemati in una stanza per la notte. Adso si addormenta, ma successivamente viene svegliato dall'abate che entra nella stanza per conferire con Guglielmo. Adso decide di far finta di dormire perché svegliarsi proprio in quel momento sarebbe stato molto sospetto. E di conseguenza non poté fare a meno di ascoltare tutta la conversazione. Qui Guglielmo, sempre tramite le sue doti di deduzione, riesce a estrapolare dall'abate l'avvenuto suicidio di uno dei monaci, svolto in un'area del monastero non accessibile a tutti, ma gli indizi facevano sembrare più che un suicidio un vero e proprio omicidio. Questo ci spiega anche la presenza di Guglielmo nel monastero. Egli ottiene comunque dall'abate il totale accesso al monastero, a parte per la biblioteca, per una questione di sicurezza dei manufatti, e da qui inizia la sua indagine sul caso. Con la trama mi fermo qui, anche perché non voglio andare a spoilerare altro.